che gol, perché questo è così, o cose ne hanno passato Alemania di un malese ti vorri. Ma quando ho scritto da destra la mano, dai. Avanti Carlo, Luca c'è per in secca. No, a me puttana sai, a me. Una puttana sai. No, la conosco, stasera era in live con lei anche. Aspetta, mando lo screenshot. Aspetta un attimo. Vedo che in secca. Io viaggio la bizzina. Non mi interessa, ma a parte che così no, no, non mi garba. A me mi danno fastidio, queste che sono loro a prendere iniziative e cose, mi danno fastidio, invece io a conquistarmela la donna, sono all'antica io. Guarda, l'ho mandata già. E poi la guarda. Comunque, tornando al discorso che la sera c'è poca gente, il dopo cena è perché la gente ormai c'ha tutto, Netflix, Prime Video, ce n'è di tutti i colori. Guarda, caro, ora l'ho mandata anche a te. Penso pure gli occhiali c'ha. A me anche. Ma poi questa qua è, cioè non me ne frega niente, capito? Allora, se ti vedo una cosa la dice senza scrupoli, senza vergognarsi, non ne fotte niente. Stasera ha detto che gli piacerebbe fare la cosa a tre con due uomini, capito? Lei e due uomini. Ah, lei, ma questo su Facebook. No, su TikTok. Addirittura. Cosa già? È giovane. Stai uscendo già. Ho detto, secondo me lì va in cerca perché è fea, non la conosci, allora si espone lì. Vabbè già, fea, non è fea. È grassa, dai, siamo là, è un bel grassa. C'ha la forchetta vicino se guardi la foto. E sta cucinando, infatti, le fettine. Non era tutti nudi, ha detto anche in tre. Per carità. No, vabbè, lasciamo perdere. Poi, con quei vibratori che sono più grossi. Chissà com'è. Vabbè, dai, cambiamo discorso, da mai c'è qualcosa che sta ascoltando. Va bene così, avanti, Carlo, li prendi. Già sono bei discorsi, non è che... Comunque, lo so, ce n'è di tutti i tipi, questo deve essere anche un peperino, eh. Ma mangia un barese ti vuole. Avvedumi già, mamma mia. Come ha detto Luca, se ne ha tanti, deve essere sfondata proprio. Ma di Sassari lui? No, di provincia di Cagliari. Sì, dove sono entrati, per la maggior parte sono sardi, dai. Alghero, Nuoro, Oristano, Cagliari, qualcuno di Sassari, qualcuno di qualche paese, capito? Sì, ma su sì, alla fine. Già, se ho fatto un single, qualcuno la gliel'abbia ganzata, sicuro, guarda, sicuro, a mille per mille. Beh, adesso non è più come prima, con internet è facile beccare. Prima dovevi sudare, dovevi andare in discoteca, conoscere ragazze e cose, non è più come prima adesso. Adesso si vanno sui social e rimorchiare il tipo. Già, io mi è capitato, uscivo una ragazza che dopo di un mese e me l'ha fatta soffrire. Ma la sbattono subito a faccia. Io ne ho conosciuto altro che una, quattro ne ho conosciuto sui social. Ma alla fine sai cos'è già, che queste ragazze di oggi sono troppo spinte, troppo. Io le vedo, cazzo, cioè, se tu vai a Piazza d'Italia di sabato, fate un giro a vedere, se dico balle. Ragazzine minigonna corta a corta, ma cioè, sono molto deciso, tutti pitturrati. Io se è stata mia figlia, non lo so, come avrei reagito, non lo so. Ma lo dico adesso perché non ne ho, però mi sarei incazzato un bel. Tu l'avresti fatto lo stesso perché è moda e poi se non si scoprono un po' da giovane quando lo fanno, quando sono vecchie che sono tutta cruciupita. Vabbè, ma sai in mania che aveva in giro. Certo che ci sono modi e modi di avere la minigonna, io ne ho visto certe che cioè non fa salire la scala mobile perché si vede tutto. Lasciale fare, già va bene. Vabbè, comunque io sei stato geloso di mia figlia, uscire così in quella maniera. non lo vedo corretto, dai. Poi vedo ragazzine che si mettono questi leghi si chiamano, tutti tirati davanti, tutti tirati in culo. Io dai già. No, io non la vedo giusta una cosa del genere. Lo so, tutti dai, lo fanno adesso, quando è che non lo fanno? Però secondo me sono troppo piccole. Luca, quest'estate la moda era non usare il reggiseno, capito, e uscire con la magliettina attillata, quindi si vedeva tutto all'aeroporto, sai, quando le turiste con la diciamo con quelle magliettine tutte attillate, mamma mia, eravamo tutta l'estate e abbiamo perso almeno 3 gradi di vista ognuno di noi. Io invece da riacquisto mi si può pareggiare i luci. Oh, yeah. Vabbè, comunque, aspetta, e chiudo qua. E così, vabbè, dai, comunque. Sono troppo spinto, che mi ricordi io? Ma ti parlo di 20, facciamo 30 anni fa. Io non li vedevo così da ragazze. È composta subito di dicembre, capito? Forse abbiamo parlato in due, ho detto già che io le ragazze così non le vedevo 30 anni fa. Sì, ma infatti bisogna adeguarsi ai tempi, Luca, cosa devi fare? Te l'ho detto, mia madre se vedeva mie sorelle che accavallavano le gambe, subito diceva stai composta. Altri tempi, adesso è tutto cambiato. Aspetta, allora, sta un attimo già. Allora, aspetta, devo fare un video un attimo. Lascio la portante, aspetta. Allora. Mi guarda tu, lo vedi? Sale 9,5 modulato e dai, penso che si è rimesso a posto, dai. Perché prima scendeva, saliva, così faceva, partiva, poi si metteva di nuovo a posto, adesso è così, ok? Scusate, aspetta un attimo, non la portata. Mi sono visto la cosa, la partita della Juventus, finalmente ha fatto una partita in grazia di Dio, c'era Juventus-Inter e primo tempo ha rischiato grosso la Juventus in qualche occasione, poi al secondo tempo invece è finito 0-0 il primo tempo, è entrata con un altro piglio e ha rischiato di fare anche più di dei due gol, diciamo ha vinto 2-0 ma poteva farne di più. Sì, è vero, io sono in intervista e ci stavo facendo a pezzi perché l'ha battuto l'Inter, cioè ha battuto l'Inter e vabbè, Matteo stava sempre pareggiando, perdendo, ma non male, aveva fatto una partita in grazia di Dio, meno male. No, ma io lo stesso, io non è che io guardo un po' tutte le partite, sono juventino, ma comunque ieri l'Inter è stata sfortunata in due occasioni, perché se fosse passata in vantaggio l'Inter penso che gli sarebbe venuto più in salita la Juve, capito? Il problema è stato che non ha concretizzato l'Inter nelle occasioni che ha avuto, quello di Olofeu che si è mangiato un gol fatto praticamente, capito? Anche Martinez ne ha sbagliato un altro, Zecco l'ha mandato quel colpo di testa che è uscito di poco, quindi non ha concretizzato con quelle lì, e poi al secondo tempo magari la Juventus si è un po' raddrizzata, ha avuto più fortuna, capito? Vabbè, là. È riuscita a batterla, là. Perché se vinceva l'Inter poi la partita l'avrebbe comprata, avrebbero comprato il VAR, come sempre hanno fatto, per carità. L'anno scorso le ha vinte, mi sa, l'Inter tutte e due. Vabbè, Gianni. Ah, io di calcio non me ne intendo, non ne seguo calcio, non mi piace, non mi è mai piaciuto. Giocarci sì, ma vederlo così no. Non è grave già, l'importante è che ti piacciono quelle cose di prima. Ah, quelle lì, guarda, a me mi chiamavano Gianni il Caldo. E già va bene allora, dai. Lo prima di tutto. Sì, vabbè. Adesso un po' già ho calato, ma prima già ero più, capito? Quando c'erano le donne in frequenza. Adesso non ce n'è più di in frequenza, ne ho sentito una dalle Canarie qualche tempo fa e basta, però sul canale internazionale 27555 ho detto una voce femminile, mi sa che parlava dalle Canarie. Sì, ce n'è una sulle Canarie, te lo ricordi Luca, quella ragazza che modulavamo sempre dalle Canarie? Lucrezia. Sì, già, già, stiamo mandando un messaggio a Antonio. Adesso un attimino mi sposto da qua, dovevo mangiare la Dea che sta già piangendo, dai, già è acceso qua, arrivo subito, riprendi Carlo. Luca, io ti saluto perché anche io tra un po' chiudo, che iniziamo a preparare cena eccetera, e magari non so se ci risentiamo, dai, alle prossimine Luca, se coincide, vai Gianni. Okay, allora, ciao Luca, buona carica quando la fai e buona carica anche a Dea. Ciao Carlo, dai, ciao Gianni, anche a te, alla prossima, dai, buona cena. Io mi sposto a 23, già saluto la Gio Maria adesso, un attimino. Avanti Carlo. Ogni tanto Gio Maria si sente su quel canale lì, sul 23, io girando a volte li sento, ma poi cambio, intanto loro si fanno le quattro chiacchiere su quel canale sempre. Tu li ascolti qualche volta, già. Scusami, ma c'è la casa, non ho capito cosa hai detto. Detto che Gio Maria stanno sempre su quel canale, sul 23, ogni tanto girando per i canali già li sento. Sì, io entro anche a salutare, eccetera. Quando non c'è gente entro lì. E tanto, dove c'è gente entro, Carlo, non è che ci sia un canale fisso, e se trovo altra gente entro anche con gli altri. Sono amico di tutti. E avanti, chi è? Ciao Carlo, vabbè, ciao Gianni. Che non ho capito. Ciao, ben sentito, buonasera. Non mi conosce più che. Troppo ecco forse c'è. L'ho tolto. Ah, ciao Antonino. Ehi, ma com'è, Bobo? Dove c'è il carrettino? Antonino. Dimmi tutto. Stavo raccontando a Carlo del linearetto che avevo vinto alla lotteria che vi fa tutto di 30 watt, tu te lo ricordi? Ehi, 30 anni fa. Avevi fatto la lotteria e avevo vinto secondo o primo. L'avevo fatto uno o due invece ha detto questa lotteria, poi. Niente, qualche persona aveva detto che io lo facevo per guadagnarci i soldi. A quella persona infatti sono andato con tutti i biscottini, la roba che ho comprato. Se voi sapete, ho detto ci ho rimesso anche 7.000 lire a quei tempi. Figurati. No, ma era una cosa, dai, era una cosa bellina, tanto si faceva caccia al tesoro, Carlo, si facevano tante cose allora. Ho capito, buonasera Tonino, ben sentito, no, il primo passaggio non ti avevo riconosciuto neanche io perché c'era l'eco sparato e quindi siamo stati un po' zitti con Gianni, poi già quando l'hai tolto già si è capito. Ok Carlo, già non ero rimorbuti, dai, tranquillo. Niente, mi stavo facendo una benedizione sott'olio, poi ho sentito Gianni al telefono, insomma, e lei dopo entro un pochettino, se c'è qualcuno, tutto qua. È raro che c'è del baracchino, Beh, intanto quando ti capita, quattro chiacchiere, ci fa sempre piacere a sentirti, Tony. C'è una collezione, non ne usi manco uno, bro. Beh, non c'ho mai fatto le gioco vendendo, che non me l'ha fottenuta, mi basta, mettere che sono due e basta già. Troppe stazioni fisse ciò e uno poco fa mi ha contattato per il Galaxy e poi quell'altro che ho tipo brutto che c'è un bel canale stesso per macchina bella, oltre che si mette tutto. E il Galaxy quanto lo sedà? Ma guarda, non lo so, più o meno 2,50 non lo dovrei mai. E 2,50 è buono, è buono per te. Perché solitamente 200 li vendo, no? Se riesci a vendere 250 è buono. Gianni non è stato mai aperto, mai potuto aggiustare, non ci ha messo mai nessuno, avrebbero veduto un radiatore cadere in tano, capito? Io ce l'ho messo da 2-3 anni e grazie a Dio sta sempre andando bene. Ogni tanto attacco l'altro, il presidente, un po' attacco l'altro ancora e io ogni tanto giro. Ma una volta lo dici. Gappa, infatti, bisogna farli girare perché io ho anche il microfono che c'avevo fermo, sono andato a usarlo, non funziona più, non modula più, sia parte la lancetta dello speaker ma non si sente la voce. Guarda, Mario Barbarici mi ha regalato due baracchini, uno funziona, gli tre, l'altro c'è la nuova canale, SB è famoso, Mario non funziona quello lì. Dice, eppure quando abbiamo sullo spettro messo nel casapanca, conservato, e Mario è roba di 15-20 anni che non lo usava più, buttato da una parte. Vabbè, quando c'è un po' di attento, dopo controllo bene, c'è qualche fusibile o qualche filo staccato, non lo so, poi si vedrà. E allora Carlo, che mi racconti? Che io ho aggiustato le Galaxy che mi aveva dato Gianni, non funzionante, ma lo uso poco e niente, capito? Prima me l'avevo portato a casa a Bonorra, però poi lì ci vado d'estate, a volte mi ci fermiamo qualche settimana così, e già l'ho usato lì, ho fatto anche qualche buon di X eccetera, però poi lasciarlo lì d'inverno c'è freddo, umido, quindi me lo sono riportato a casa e ogni tanto bisogna attaccarlo, però certo, sono molto delicate queste apparati. Vabbè, io ho la casa asciutta qua, quindi io metto in campagna, però mi sono costruito un mobiletto e ce l'ho insaccato dentro. Il mobile è abbastanza grande, poi ci ho fatto un armadio a muro e ci ho messo tutti i baracchini che ne hanno in me. Se riesco a darli in quell'armadio a muro ho altri progetti. Ho capito, sì, comunque diciamo, la valutazione del Galaxy è quella che hai detto tu, più o meno è quella lì, capito, in base alle condizioni, insomma, tutto, però la tua mi stai dicendo che non è mai stata aperta, eccetera, quindi anche qualcosina in più puoi chiedere. No, no, io vado al 250, di meno non le do, assolutamente. Io ripeto, non mi interessano né soldi né niente. Sto bene come sono pensionato, non è mai da beussi. Se riesco a dare un po' di marmaglia a quei baracchini che c'ho stazione base, eccetera, voglio liberare. Quasi non mi fa un bel blocco, o me ne compro 3 o 4, gli altri gliele regalo tutti, non me la potete usare. Quei vici vici. Troppe prove per liberarmi tutto perché non mi frega niente, ciò che ricevitori, e c'è una roba, ma... Un po' hai accumulato negli anni, dai, e adesso magari per lo spazio qualcosa la devi dare via, se no ce l'hai sempre lì. No Carlo, non ho accumulato negli anni, l'ho accumulato in pochi mesi, perché sono andato da qualche persona e li ho comprati 2 o 3, 4 là, 3 lì, 2 lì, 2 o 3 da fuori, capite? Quindi in poco tempo, pochi mesi mi sono accumulato tutti questi baracchini e basta. Mi piaceva, però adesso mi sta passando la buglia perché non è più come prima che c'è poca gente, quindi qualche volta ascolto e qualche volta manco le accendo. E più le volte che non accendo, che ascolto tutto qua. E avanti Gianni, se no ti si trovi la mano. No, io non mi si trovi, ho già leggero il microfono. Questo microfono l'ho messo stasera e praticamente l'ho messo al posto del turner, perché non funziona più. Adesso devo controllare le lamelle, si sono piegate sicuramente. Vedi un attimo con Carlo che devo fare una piccola cosa, 2 secondi. Allora riprendo io. Sì, l'ideale è avere una o due radio, capito, e andare avanti con quelle, perché al momento ce n'è per i porci, perché non è più come una volta che c'è tanta gente, quindi io ne ho una piccolina in macchina che adesso l'ho tolta ma la devo rimettere e ci metto il linearetto però in macchina, e poi per casa mi tengo questa, poi il Galaxy che l'ho aggiustato non lo so se lo tengo, se lo venderò prima o poi, non ho idea ancora, ma non penso di prendere altri pezzi, capito? Infatti, tanto io qua ne ho tre più uno per la macchina, sono 4, vanno benissimo. Ne avevo 5 col Galaxy, adesso il Galaxy non ce l'ho più, ma la stazione è completa lo stesso, e anche senza il Galaxy più ripiani sono completi. Io lo stesso giù c'ho anche un alimentatore Sadelta, che è di quelli 8-10 ampere, capito, 13,8 fissi, l'avevo preso per questa, poi però col lineare ne ho preso uno più grosso, sempre della Sadelta, che già va bene, e per cui la tendenza è sempre a accumulare poi pezzi, contropezzi, prima c'avevo il ricevitore che l'avevo venduto, adesso ne ho una portatile, come ti dicevo prima, piccolina, poi c'ho un portatile CB, insomma, le cose ci sono. E anche io ce l'ho il portatile CB, ma non l'ho più usato, consumo un po' di batterie mia, andavo, quando scendevo giù col cane me lo portavo appresso, quando magari c'era qualche QSO bello che non mi piaceva mollare, restavo sempre nel QSO e accendevo il portatile e parlavo dalla strada. Ma era bello, è bello perché ti sto dicendo, sono arrivato dalla strada che porta su al monte da vicino a casa e sono arrivato a Porto Torres, non fortissimo ma mi hanno sentito. Come sono uscito con questo? Bene, tu. Sto usando il presidente. Va meglio questo dell'altro, l'altro che cos'è? L'altro è il Galaxy. Più forte la radio questo. Questo, aspetta, adesso ha migliorato qualcosa, 1, 2, 3, prova. Non c'era nulla da migliorare, certo che era più forte del Galaxy. Vabbè, sempre Mike normale sto usando, capito. Il Sider Kick è quello lì, è sempre messo con l'armadio lì, anche le spalle 500. Quando ne avrò voglia, già, me l'ha dato qua. Ho pagato. L'Expander 500 va bene, ma occupa un po' di spazio. Infatti il mobile che ho io non va bene, è troppo basso, l'ho fatto invece a 28 cm, io se vi faccio, no, oppure 25, 24, non mi ricordo quanto l'ho fatto. Vabbè, tu caro come mi ascolti così? Perfettamente, aspetta che abbasso che qua c'ho l'altra accesa, se no mi suona tutto. Questa è radio normale, Cotoni, non è amplificato. No, no, questo è il microfono suo originale, presidente, proprio. Va benissimo, è un bel buono questo microfono, bella chiara la radio, è forte. Questo apparato l'avevo pagato, mi sembra, 120 euro. Fatto arrivare da fuori, 80 canali. E è interessato una persona che lo vuole, voleva fare scambio con qualcosa, ha detto no, lascia perdere. Io lo do per soldi, ma è merro, ma così non mi piace, facciamo. Vabbè. Se te li vuoi togliere dalle scatole, ne prendi altri. No, perché le voglio togliere, già, tenermi soltanto due. Allora, se riesco a mettere tutto l'altro, mi va benissimo. Se riesco a tenermi sia quello che c'è un tipo Galaxy Pluto e più il Galaxy, mi va perfettamente bene. Oppure te quel Galaxy, ma il coso, questo piccolino, sempre 200 canali con gli SSB, e il presidente mi va bene lo stesso. Vorrei anche il ricevitore, tutto, no, non frega niente. Allora, io questo qua non l'avrei dato perché c'è un bel forte, va bene, ti sto dicendo che se vuoi te la registro, te la faccio sentire la telefonata, perché la telefonata esce forte. E come segnale, sempre ottimo, sì? Sì, sì, sì, va bene. Anche caro, come ti arrivo? Non so neanche che zona sei comunque. Confermo, qua io ti sento molto meglio adesso che prima. Addirittura ho acceso il portatile, prima non ti sentivo, invece ti sento anche col portatile adesso. Che zona sei tu? Sono tra via Luna e Sole e via degli Astronauti. E segnale, come ti arrivo? Fondo scala qua, quindi è un Santiago 9 più 30. Sei in alto, quindi io penso che in via d'aria sono pulito verso la zona sua già. Sì, sì, sì, infatti. No, ma poi Carlo c'è una buona antenna, c'è una buona ricezione l'antenna che c'ha. Carlo, io sono nel zona di San Camillo, dai. Caspita, quindi diciamo a voglia, linea d'aria, non siamo distanti ma non è neanche tanto vicino, Pensavo fossi più vicino, Tony. No, negativo. È un'antenna che ho pagato una fesseria, ma proprio la fesseria come quella che c'ha Franco California. L'ho pagata, mi pare via internet 55-60 euro, una cosa del genere. Sto usando una Smartec, quelle J-Pol che me l'ha data Claudio. È un'ottima antenna, buone soddisfazioni, DX tranquillamente, arrivo un po' dappertutto, tutto il nord Europa ho collegato e non solo, anche da altre parti. Da quando questa di antenna è eccezionale, sento anche radio basse, prima non le sentivo, capito? Già sono anche in alto io, quindi una buona zona, sono in un palazzo di 6 piani, per cui sono molto molto in alto. E abiti all'ultimo piano, scommetto? O magari, io abito al terzo, quindi ho anche una bella discesa di capo d'antenna. Aia. Vabbè, dai, comunque c'è una bella zona, dai, va benissimo, meglio così. E niente, io c'ho un avveno, praticamente 5 ottave d'onda, così la davo per 5 ottave, ma comunque. Poi ho fatto un bel pizzo e ci ho messo armato, ci ho messo a 2 pietre e mezzo del calcestruzzo, ferro e tutto bene. insomma, io l'avevo prima installata qua dentro il giardino, e tu pensa che quando ho provato ad andarmene via ho dovuto tagliare il palo proprio con la molezza, perché a uscire come ti va così. Poi invece secondo tempo mi sono ritornato qui, di nuovo l'ho fatto esternamente, sempre la stessa procedura che avevo fatto prima. Quindi, voglia di carriole, calcestruzzo, ui, vabbè. Poi sono contenti tutti, dai. Ho fatto un bel lavoro, però dovrei sollevare altre due termiti per andare bene. Quello sì, come antenna mi sta dando soddisfazione abbastanza bene. Avanti già. Io te l'avevo detto che eravamo un'antenna. Sì, no, è fatta con cavo fino, quello che vuoi, però va bene, perché tutti quelli che ce l'hanno vantata. E poi Franco arrivava forte qua, Comunque ci ha piazzato l'antenna, perché sono passato con le zone perché devo ritirarmi qualcosa di raccomandata, io ho quelle poste vicino a Franco e quindi ogni volta che passo lì la vedo l'antenna. Ma dici che l'ha capottata? Se l'ha capottata il vento? Ehia. Ah, non lo sapevo, insomma non mi ha più detto nulla. E magari il palo. Ma l'ha rimessa a posto, perché io ho visto che hai i piedi l'antenna. Ah, ho capito. Va bene quell'antenna lì, sì, di lusso, è sempre andata bene. E poi non ha stazionari soprattutto, tu la piatti e uno e buf. Sì, anche la mia, già. Marco si muove, perfetto. Nino, cos'è, ma 5 ottavi mi hai detto la tua, la Venon? Sì. E 5 ottavi sono ottime comunque. Anche quella che ha piazzato Natalino mi sembra una 5 ottavi. Sì, ma io, a me piace molto di più, è più robusta, più tutto quanto. La Mantova 1, c'è una da fare. Ho la Mantova 5. Comunque mi hanno indicato l'altro, non mi ricordo più come si chiama, che costa 180 euro. Aiutami già, non mi ricordo più, quella buona. Che è un amico di Stefano che le fa. Ah, la Grazioli. Bravo, quello lì. Quella è una bella antenna lo stesso, ma ho visto c'ha roba di bullonatura, l'ho vista piazzandola io quell'antenna lì su internet. È un'altra roba di bulloni c'ha. Ci vuole un ingegnere per piazzare questa antenna. Agito, se mi piace questa antenna, devo cavare una guida solo per capirci qualcosa e poi devo piazzare. Basta guardare le istruzioni, già la piazzi tranquillo, però c'ha un bel po' di bullonatura, di viti, di coso, ne ha un bel po'. Ed è anche bella massiccia come antenna. Sta usando stesso, diciamo, il diametro della Mantova 1, quindi. No, mi piace. Però ripeto, non lo so, adesso vediamo. Io ripeto, se mi tengo te lo so due baracchine e basta. Riesco a fare qualcosa in più se riesco a eliminare un po' di roba, perché i progetti che ho in testa per quell'armadio a muro, se non riesco a farlo, non faccio altro, rimango come sono e basta. Io sono fatto così, già quando mancavo una cosa devo fare, però devo fare come dico io e voglio essere libero di tutte le cose. E qua devo fare un mobiletto molto più piccolo di questo marasone che ho. Poi, qua c'è tutto, saldatore, cose che non c'è, c'ho i sportelli, c'ho il nastro isolante, addirittura avevo preso due bombine da 10 rotoli in uno, fatti conto, un casino, poi non parliamo dell'altro nastro isolante che c'ho fuori, in asciuga, in tutti i colori, e Claudio l'aveva vista, è fatta in carbone, ti fa tenuta. La mia è la Superlem, è fatta benissimo, è come la Mantova 1, se ti può interessare, Tony. È come la Mantova 1, anzi, ti dirò di più, la parte di sotto è tutta in acciaio. La Superlem, cos'è, 5 ottavi? Certo. E tu perché ormai c'è questa Superlem? Io? Ma non è la tua la Superlem? Sì, la Superlem, quella che ho io, quella che vende Fusaro, quella lì è buonissima come antenna, va benissimo. Ecco, io ho tutti gli stessi segnali che avevo con la Mantova 5. Sì, ma già io per prendermi quella 180 euro, me la trovo la Grazioli, che è una signora antenna. Beh, vabbè, fidati la Grazioli. Ma non penso che cambia molto, Ma Stefano me ne ha parlato molto bene di quell'antenna, quindi. Ma non lo so, poi vediamo già, perché l'intenzione mia è quando è chiuso la pratica per quella questione lì che ho avuto, come dare soldi, io me ne vado 11 giorni da Stefano, me ne vado. Cappa, va bene, fai bene. Avanti. A chi tocca? Io ho avuto fortuna, me l'ha data Claudio già pronta, quindi diciamo solo accorciata e io l'ho diciamo riassemblata a casa, me la sono messa in macchina e quindi sono riuscito tutto da solo a mettermela sul tetto, capito, portata su e sul tetto l'ho riassemblata, era in due pezzi, capito, e poi l'ho fissata nel palo diciamo telescopico e poi pian piano ho alzato i pali telescopici, capito, quindi diciamo non c'è voluta molta forza, però ho visto che nelle istruzioni per assemblarla appena comprata, insomma, era un po' complicata perché quella che ho io, la J-Pole, praticamente in due pezzi ha la parte alta che è oltre 5 metri e poi una parte più bassa, ha una forma di J, capito? Però da solo sono riuscito a metterla su, capito? Già sì, mi sa che l'hai vista tu Gianni com'è la mia, anche abbastanza in alto l'ho tirata e già va bene, non c'ha nessun tirante, non ha radiali e anche quando fa maestrale forte ho visto che non flette più di tanto. Ehi vabbè, tu sei un po' coperto dai, lì per il maestrale. La zona brutta è la mia, che sono proprio di fronte al mare e il maestrale mi arriva proprio fortissimo, fortissimo, addirittura a me mi ha troncato il palo. Ecco, avanti. Mia Gianni, finalmente ti sento come piace a me. Che radio stai usando io? Il 3009 col microfono normale. C'è una radio tipo, come ho detto ieri, il telegiornale, bellissima, quando dico pulita, senza imperfezioni, perfetta. Va più che bene. Saluto anche a Carlo, non so se c'è qualche donato, non ho fatto ascolto. Faccio riprendere a Claudio, buonasera a tutti e due. Ciao Roberto, buonasera, c'è anche Carlo, vai per chi vuoi. Ho rilasciato a Carlo, vai Carlo. Ciao Roberto, buonasera, c'è Tonino Kawasaki con noi facendo quattro chiacchiere, parlando di antenne varie. Vai Tonino se senti Roberto. Ci mancherebbe altro, non lo sento. Ciao Roberto, ben sentito. Anzi, sì, vediamo come ti arriva a te con questo presidente che sto usando, ma è che è normale. 9 più 25, ti ascolto bene, forte e chiaro. Ok, ben sentito anche a te, Torino, c'è qualche altro? No, solo siamo rimasti noi, c'era Luca prima e però aveva da fare, non so se sia ancora in ascolto. Ok, a chi tocca Gianni? A te? No, io ho appena mangiato una cosa veloce, ho detto sì, accendiamo se c'è qualche amico e infatti l'abbiamo trovato. Vai di nuovo Gianni. Cappa, io non ho ancora mangiato, sto aspettando che salga la mia compagna col cane e poi me ne vado anch'io a mangiare. Sì, vabbè, ho messo un microfono, questo microfono qua l'ho assemblato io, l'ho fatto io. Gli ho messo una capsula che c'avevo, il filo gliel'ho cambiato, ho messo il filo morbido, cioè è fatto tutto da me. No, va benissimo, guarda, raramente ti ho sentito così pulito e perfetto, senza nessun disturbo, la modulazione proprio pacata, tranquilla, non è di quelle da combattimento, per città va più che bene, magari se devi fare DX ti metti un microfono più potente, ma per come la vedo io la radio qua in città ce n'è per i pulci in avanti oppure. Ok, Tonino a te. Ok. Andrà bene, invece guarda, sta iniziando il telegiornale, io sono un tipo fissato col telegiornale, piacciono le notizie, non dico fresche comunque. Ok, mi sei trattenuto oltre, ma ripeto, mi do anche a preparare la cena, perché se la preparo io, certo i miei cucciucci non me la preparano, okay, devo anche decidere cosa fare a mangiare. D'accordo, entra più presto la prossima volta quando ce la fai, Robè, dai, ci facciamo una bella chiacchierata. Io vi saluto, grazie al consiglio, ciao Gianni, ciao Carlo, statemi bene, ma proseguo alle prossimine, ciao ciao. Ciao ciao Torino, ci sentiamo, sto facendo corretti anch'io, saluto tutti gli amici cordialmente, vado a mandigare. Ci sentiamo, ciao ciao, buona serata a tutti, grazie per il QSO. Capa, riprendo io, ciao Gianni, ciao Torino, ben sentite anche se per breve minutaggio, ok, vai Carlo. Ciao Gianni, Ciao Tonino, alle prossime. Va bene, Robè, riprendi tu. Cappa, tu come al solito arrivi a bomboletta, Carlo, non ce n'è per nessuno. Idem lo stesso, anche tu qua arrivi fortissimo, Radio Super 5, qua è tutto fondo scala, ma noi siamo anche vicino, capito? Anche tu già hai una buona antenna, zona alta, e quindi non ci sono problemi. Io sto uscendo con pochi watt, adesso sto uscendo con 3.5-4. No, no, ma tu anche se sei con un pezzo di filo, con la posizione, che c'hai, con mezzo watt arrivi a bomba, qua c'è un segnale, la paura. Se le antenne nostre si vedono probabilmente, se vai in cima all'antenna si salutano e si toccano la mano. Vabbè. E a Lucariello, vabbè Luca, tutto bene? Questo è il iPhone, l'ho sistemato, com'è? Non ho capito, cosa hai detto Luca? Ho detto, questo è il iPhone, c'aveva problemi, non usciva, c'erano problemi. L'ho sistemato, come ti sembra? Una bomboletta, come piace a me la radio, bella, chiara e squillante, la solita tua, bellissima. Ok, c'è anche Carlo, vediamo a Carlo, avanti Carlo per Luca. Gliel'ho detto prima a Luca che già va bene quel microfono, è perfetto adesso, perché prima dice che era da molto che non lo usava, robe, gli stava funzionando male, ma forse come l'ha usato un pochino e l'ha acceso, sta andando perfettamente adesso. Vai Luca. Ehi, sono andato giusto a fare una prova, sto mangiando. No, guarda Luca, ma per curiosità, quanto ti arriva Carlo a casa tua, considerando che ce l'hai di fronte? Luca. Dimmi. Quanto ti arriva per curiosità Luca che ce l'hai di fronte? Cioè, scusa, Carlo, quanto ti arriva Luca? Prova Carlo. 1, 2, 3, prova radio, come mi senti? Poco più alto di te. Qua perché arriva 9 più 50 sta arrivando con 3 watt, figurati che tu ce l'hai davanti. Arriva bene. La bomba, c'ha una posizione, non ce n'è per nessuno. Prima era torre controllo, era Claudio, adesso è passato lui, c'ha una posizione invidiabile. Da tutte le parti a muro su passa pure a coso. Anche a Claudio, arriva più forte di Claudio, considerando che è più vicino Claudio. Ma la colpa è di Claudio che me l'ha data lui l'antenna. Lo so, però c'è una bellissima posizione. Guai se tu metti una radio un pochettino più performante, ma non ce ne sarà per nessuno. Ok, lasciamo il secondino di bianco, se qualcuno vuole entrare, se no riprende Luca. Io sento un disturbo, ma l'ho sentito. Magari qualche motorino che hai dalle tue parti, io non lo sento, va bene, c'ho lo squelci molto alto perché prima c'era un sacco di rumori di sotto, però non sento niente io, robe. Luca mi sa che sta cenando, Infatti scusa, ho detto che stava andando a cenare. Ok, cosa ti volevo dire? Tu non hai fatto l'iscrizione a quel gruppo di Marsala 165 Whisky Mike? Sì, esatto, mi hanno mandato anche tutto il materiale, dopo l'avevo richiesta intorno a agosto e poi mi hanno scritto Radio Club CB Whisky Mike di Marsala, mi hanno mandato la tessera numero 2136 rilasciata il 25 settembre 2022, firmata da Salvatore Orlando, e mi hanno dato il nominativo che è Whisky Mike 150 Carlo 165. Quando sei arrivato 150? Esatto, 150, ma avevano dato la possibilità di scegliere alcuni numeri, ma ho preso quello che era più semplice, 150 Whisky Mike, già va bene. Vabbè, 165 Whisky Mike, quello è per tutti uguale, perché è il coso nominativo dalla sezione di Marsala di questa associazione. E poi c'è progressivo, io sono 105, mentre Muros mi sembra sia 102, 103. Esatto. E io 101. 1-1 sei tu qua al centro. Natalino. Aspetta che abbiamo parlato sopra. Vai Natalino. No. Cos'è? No, non posso parlare. C'è un merlosino sotto Natalino. Sì, va bene. Va bene, dai. Ok, dai. Cosa volevo dire? Vabbè, ascoltaci Natalino, cosa vuoi? Era accennato Gianni, c'è che ha avuto di nuovo dei problemi con qualche simpaticone. Vabbè, secondo me il problema non è tuo, il problema è suo. Comunque, speriamo che si risolva quanto prima. Carlo, a te il mic. Sì, esatto, è così come ti hanno riferito, perché l'ho sentito anch'io che lo diceva Natalino, quindi può fare ascolto. Ciao Natalino, comunque ti saluto, se non puoi parlare, già ci stai sentendo. Mi dispiace se stai creando di nuovo TVI, però ascoltaci e spero che possa risolvere il problema. Dai. Purtroppo è così, anche io qualche problemino l'ho creato qua, non di TVI, di altro genere, adesso sto modulando con meno watt e le quattro chiacchiere le sto facendo tranquillamente senza creare disturbi. Sì, ma i problemi sono loro. Quando usi un apparato omologato con la potenza di legge, per cui il problema se inizi a metterci eco, amplificatori e compagnia cantante, a quel punto crea un sacco di... puoi creare naturalmente se l'apparato è manomesso, scacciavitato come si dice in gergo CB, però c'erano parecchie cose, i problemi sono loro, perché sono talmente ristretti i nuovi apparecchi CB, la seconda armonica è talmente infinitesima, che nei 4 watt sono 1000 watt, per cui di cosa stiamo parlando. Probabilmente c'ha l'antenna un po' gommosa male, gli hanno messo un amplificatore per sollevare il segnale, il cavo magari mezzo sbucciacchiato, c'è un po' di umidità e fa la cosa, da piano riflettente, il coso, il terrazzo o il tetto, per cui si accumula tutta la sporcizia che potrebbe radiare l'antenna. Esatto, e sono rotture di scatole comunque quando vivi diciamo a fianco di altre persone o sei in condominio, è sempre così, dai. Quindi devi trovare un po' il compromesso e io ho tolto un po' di watt, in effetti attaccavo un po' di potenza e adesso sto uscendo con solo pochi watt, e quando devo fare qualche mix magari cerco di farlo la mattina, no? Che magari la gente va a lavorare quando io sono a casa e devo fare così per forza, capito? Scappa, cambiando discorso, domani notte di servizio sei, Carlo? Allora, da oggi sono in ferie sino all'11, c'ho una settimana di ferie da oggi, perché ne abbiamo accumulate tante, quindi ce le stanno dando così prima di dicembre, se no poi alla fine ce le devono pagare, siamo in tanti in questa situazione, allora ci stanno dicendo di prendercele, me le sto prendendo a spezzoni adesso. È meglio farle, se no poi magari c'è il rischio che te le perdi. Ok, come non detto, allora domani dovrò accompagnare la mia figlia, prende il volo credo delle 10, confermi c'è un volo alle 10 per Bergamo domani notte? Aspetta che te lo controllo, ma penso di sì, capito, perché ho l'applicazione, se mi dai un secondo accendo te lo confermo. Sì, con calma, non ti preoccupare. Mi ha detto che c'è questo volo Ryanair di cui ha preso l'ultimo, quelli low cost presi a poco prezzo. Sì, c'è Bergamo alle 22:20, FR4709 Bergamo, e poi l'ultimo però è Bari, Alghero Bari, FR4074 alle 22:45, capito? Sì, domani c'è la chiusura alle 22:45. A quell'ora diciamo se è lì per le 21 non fa neanche tanta fila. Sì, infatti non penso che ci sia molta gente che va a Bergamo, comunque va bene come non detto. Ho letto che hanno fatto il primo volo intercontinentale da Cagliari, hanno fatto Dubai, Cagliari-Dubai da Elmas, pensavo fosse una cosa normale, invece dice il primo volo in Sardegna da un aeroporto sardo intercontinentale. Può essere, perché Cagliari ha un sacco di rotte, capito? A differenza di Olbia e Alghero che adesso hanno limitato solo pochi voli a questi aeroporti del nord Sardegna, capito? Cagliari ha fatto l'unplane invece. Perché quest'estate ho letto che hanno atterrato un Boeing 757, quello grosso, a Olbia, la prima volta che ho Alghero, adesso mi ricordo se era Olbia o Alghero, infatti ho detto, se atterra un aereo così grosso penso sia abbastanza normale fare un volo intercontinentale. Sì, Olbia quando è 2 anni fa ha rifatto la pista, l'ha allungata perché ce l'aveva corta e aveva anche fatto gli spazi per ricevere quel tipo di aereo lì, anche se non credo che da Olbia partiranno mai voli intercontinentali, capito? Giusto può darsi da Cagliari, perché è tutto su Roma e su Milano, capito? Roma, Fiumicino, e poi invece Milano c'è Malpensa che ha il grosso dei voli intercontinentali, parte anche mia figlia, è partita in Australia e praticamente ha fatto Malpensa, Dubai, Sydney, capito? Cacchio, 24 ore di volo, quante ore sono? 24 no, ma capito, sono 22, però impieghi più tempo perché quando arrivi a Dubai fai scalo di 3 ore, capito? Vabbè, finché sono 3 ore, ma se sono 7-8 ore alla fine ti stufi, comunque 3 ore sono sopportabili se fai l'attesa dell'aereo, ma altre volte poi quell'aereo arriva in ritardo, quello, quell'altro, e ti tocca rimanere buttato nel covo. No, no, sono belle sfacchinate. E c'è un amico, lo stesso ci è andato spesso in Australia per lavoro, mamma mia, dice una cosa, non finisce mai quel volo. Ci sono andato anch'io 7 anni fa, eravamo andati tutta la famiglia e avevamo fatto Alghero-Roma, Roma-Londra, perché l'ho preso da Londra, e poi Londra-Singapore, però ho fatto Londra-Singapore con la compagnia inglese, la British Airways, e poi siccome la British è partner con la Qantas, la compagnia italiana, praticamente da Singapore siamo partiti con la Qantas, però tutto lo stesso biglietto, capito, perché sono partners con la British, e quindi da Londra a Singapore abbiamo impiegato roba di 8 ore e mezza, no, quasi 9 ore, poi abbiamo fatto uno scalo di 5 ore a Singapore, però l'aeroporto di Singapore è spettacolare, capito, non ti annoi, e quindi il tempo passa veloce perché c'è un sacco di roba da vedere, e poi da Singapore a Sydney altre 6 ore. Io lo so, io viaggi così lunghi, ma è fatto già, se fa un'ora e mezza di coso di volo mi fanno male le gambe, poi questi aerei, vabbè, sto parlando di voli nazionali, ho fatto diverse tantissime volte, facevo Alghero Roma e Roma Tirana, quando c'era quel cavolo di quelli rumeni, come si chiamava, Blu Panorama, mi sembra, che c'erano le stesse aerei dall'Italia, però per guadagnare qualche porto avvicinavano i sedili, puoi fare forse una o due file, me ne ritornavo a casa quando arrivavo all'aeroporto di Roma con le ginocchia, io ho problemi a seguito di sport, giocando a pallone, ho problemi alle ginocchia, non posso rimanere troppe volte seduto con le ginocchia, mi fanno male, e di lì mi ricordo un dolore quando arrivavo. Ma sui voli con gli aerei grandi già c'è lo spazio per distendere pure le gambe, capito, quindi se ti vuoi alzare nei voli intercontinentali ti puoi alzare, fare una passeggiata, i posti sono più ampi rispetto a quelli dei normali aerei, capito, che usiamo noi sempre per andare a Roma o a Milano. Io lo stesso 4 anni fa siamo andati agli Emirati, abbiamo fatto Dubai, Abu Dhabi, però sempre da Malpensa, voli diretti, capito, e sono 6 ore di volo da Malpensa. Sì, adesso guarda, io una volta, mai più in vita mia ho fatto, per come sono fatto io, la mattina di una di coso, Porto Torres in nave, Porto Torres in Genova, 12 ore, io questo viaggio penso per il viaggio più brutto di quello che noi abbiamo mai fatto, che figurati, poi alla fine ti andavi a cercare, se figurati quando sei in un posto ristretto, chiuso per stare 10-12 ore di seduto, tu mi dici ti guarda e sì, ma dove vai? Non è che vai al cinema, in discoteca, ti alzi, ti sganchischi le gambe, poi ti devi sedere, vedrai, c'è l'intrattenimento, c'è la televisione, c'è la wifi, c'è tutto quello che vuoi, però cacchio, stare seduto, se non è il volo breve, c'è gente che si fa anche 14-18 ore ininterrotte di volo. Ho capito, sì, ci sono quelle destinazioni così, ma sono allucinanti. Allora, il volo di Bergamo, ti sto guardando, domani ha 166 passeggeri, 16 bagagli da stiva e basta. E invece il Bari ne ha poco meno di 80, capito? No, domani non sono molto carichi i voli. C'è Otopen invece, che è Bucarest, no? 206 passeggeri, quello è sempre strapieno. Ma come mai, scusami, a Bucarest va tutta questa gente da Sassari? È sempre pieno, guarda, e il Bucarest pensa che lo fa sia la Wizz Air che Ryanair, ce ne sono due volte alla settimana, capito? E sono sempre pieni, addirittura la configurazione di Wizz Air arriva a 236, capito? Usano quello con la configurazione con più posti. Quindi è sold out con l'aereo? Sì, questo è sempre pieno, guarda, Bucarest, Romania, Romania c'è un sacco di gente, ci sono molti italiani che lavorano là e molti rumeni che lavorano qua in Sardegna, quindi c'è un via vai di gente, capito, ma è sempre pieno, sempre strapieno, non scende mai sotto i 200 passeggeri quel volo. E vengono 166 alle 10:20 di notte, non è che ce ne siano pochi, sono tanti. Ce n'è, perché sto guardando io, mi mandano la lista passeggeri e tutto, no? E dalla mattina sono 79, 107, 93, 186, 206, quello Bucarest, 146 e poi 166 il Bergamo, poi c'è Bari e l'Inatec ne ha 156, non sono strapieni, il fine settimana sono invece tutti pieni, perché adesso ne sono rimasti pochi di voli, per cui i sardi che si vogliono spostare li prendono d'assalto nel fine settimana. Ma c'è anche il nome delle persone, ti dicono? No, quello, la lista dei passeggeri c'è sul sistema, la possiamo vedere solo là, capito? No, perché a me nei turni mi mandano sia i turni che la lista dei passeggeri, capito? Dei bagagli, perché noi facciamo il controllo del bagaglio da stiva, quindi ci regoliamo magari quante persone possiamo mandare in stiva per fare il controllo o meno. Molte volte ci sono bagagli, soprattutto d'estate, extra bag, perché c'è gente che viaggia col surf e quindi quello non va nel sistema nastri, allora ci vogliono due operatori, uno che continua a tenere la linea attiva e l'altro invece che va in un'altra macchina che abbiamo di supporto per radiogenare gli extra bag, tipo il surf oppure che ne so, attrezzature da golf, cose ingombranti che non possono passare nel sistema nastri, capito? Capo, perché quando era? Un paio di mesi fa, non mi ricordo quando, c'era l'International, quello dei tennis ad Alghero, mondiale, venivano tutto il mondo, c'erano più di 100 atleti che partecipavano, quelli erano tutti in sedia a rotelle, in carrozzina, e quelle lì come fanno a portare tutte quelle sedie? Tutto sull'extra bag, quello, c'è una porta all'armata che apriamo, portiamo dentro le carrozzine e poi le controlliamo con una macchina a parte. Perché non dico che questi portino qualcosa di pericoloso, però bisogna stare attenti che magari qualcuno non ci metta qualcosa dentro. Quindi mi ha detto sono 166, domani per Bergamo su quanto è l'aereo mobile, quanti ne tengono? 220, quanto arriva? Penso che questo arriva a 193, quello di Ryanair. Allora sono, che cosa, Boeing, che cosa sono, che aerei sono? I 747. Ah, ok, ma i Airbus non ce ne sono, non stanno volando qua da noi? E quelli nuovi che c'ha la ITA, diciamo, sono Airbus. Ah, ci sono qua, no, pensavo che eravamo talmente discriminati e ci davano gli aerei di terza mano. Adesso hanno tutti la livrea nuova dipinta con i colori blu, prima quando erano all'Italia erano quelli classici bianchi, capito, col tricolore sulla coda e sulla punta delle ali. No, una bella livrea, veramente bella, probabilmente uno dei più belli in assoluto, quelli con quel colore, ma mi ricordo quelli di blu panorama, erano i vecchi dell'Alitalia, fu disuso che li prendevano alle aste a prezzi di stracco baratto, li verniciavano di blu e c'era un aereo nuovo, invece mi ricordo tutti messi male dentro, pezzi, mi si staccavano pezzi, c'era il coso la ribaltina del sedile e te ne cadeva in terra, mi muovo e ne è sceso un pezzo dall'oblò, la cornice dell'oblò in terra, era una cosa come facevano, erano tutti belli giovani, vestiti bene, elegantissimi questi hostess e gli stivati che c'erano con l'aereo, rispetto di quelli all'Italia erano tutti vecchi, gente che aveva oltre 50 anni, 55, diciamo in pensione, quasi in età pensionabile, quelli di blu panorama erano tutti giovani, proprio sui 25, 26, belle ragazze, poi. Già mi ricordo, sarà, io mi sono sposato nel 93, sono passati quasi 30 anni, mi ricordo, ero sposato da un paio d'anni e con mia moglie ancora non avevamo neanche figli, mi ricordo era diciamo luglio, fine luglio, avevo le ferie, non avevamo organizzato niente, ho detto ce ne andiamo da qualche parte, vediamo cosa c'è e andiamo in quell'agenzia di viaggio che c'era in Piazza Fiume, penso che ci sia ancora, si chiamava agenzia Io, poi hanno cambiato nome eccetera, no? Andiamo e vediamo Tunisia, ho detto però partiva da Cagliari, c'era Cagliari-Tunisi e c'era il tour di una settimana, tour della Tunisia, no? Quindi tu arrivavi a Tunisi e noi siamo andati la settimana di Ferragosto. Come siamo arrivati là? C'erano 42 gradi all'ombra, ma tornando al discorso aerei, erano quelli che tiravi la cintura, no? e ti scendeva giù il poggiatesta, oppure ti abbassavi a raccogliere il poggiatesta e ti rendevi conto che su c'erano i bulloni, diciamo, svitati dei sedili, e quindi si muoveva tutto, era una cosa della Tunisia, aerei tutti vecchi, riciclati. Ho detto, qua bisogna farsi il nome del padre, capito? Una compagnia, la Tunisia, per carità. E mi ricordo, siamo partiti da Cagliari, mi sa 35 minuti di volo, non ci hanno né avvisato né niente. Mi giro e vedo i tetti delle case, ho detto, cavolo, qua siamo già su Tunisi, ho detto, non ci hanno avvisato né niente, capito? Ci sono quelle avventure che fai con certe compagnie, robe. Spero che ce ne siano sempre di meno di questi voli pericolosi, perché se prendi magari quelli aerei del Pakistan, l'Afghanistan non credo che ce ne siano, però quei paesi tipo Pakistan, paesi un pochettino in fase di sviluppo, India, che non hanno grosse compagnie loro, a livello di quelle europee o americane, che sono giapponesi, quelli Dubai, mamma mia, ho visto quegli aerei che ci sono degli Emirati, come si chiama, Cazzanapoli, che non mi viene il nome, sono tutti sponsorizzati, le squadre di calcio, Emirates, l'altro si chiama, non lo sapete più di me, quelli aerei, poi le ostesi, tutte bellissime ragazze, alte, tutto qualcosa, non c'hanno niente a che vedere con la loro cultura, nel senso, vedi tutte stangone, come si chiama quello, Qatar Airways, l'altro chi era, quell'altra famosa, di quei gruppi lì? C'è le Tiad anche, sì, ma è vero, da Malpensa le trovi tutte, c'è Tiad, ci sono gli Emirates, noi siamo andati con quelli là a Dubai, con gli Emirates si viaggia bene, sono compagnie ottime, capito, le hostess sono tutte in divisa, hanno il fazzoletto rosso, elegantissime, tutte belle ragazze, già è vero quello, io ci ho viaggiato con quelle compagnie e si sta veramente bene, è meglio di Alitalia anche. E da Rodrigo, Fly Emirates, la compagnia, quella grossa a livello mondiale, tutte belle, eleganti, col foulard, il cappellino in testa, vedete che quelle dall'Italia sembravano ripescate, magari da giovane erano bellissime ragazze, però c'hanno oltre 60 anni, quelle che vedevo lì, dai 55 in su, diciamo 60 anni in su, li vedevi proprio donne grandicelle, invece l'ultimo volo dice, dai, vi facciamo fare la Sardegna prima di andare in pensione, quando gli dà il premio di coso, di produzione, vabbè dai. Poi vabbè, ci sono tutte le compagnie, quelle giapponesi non le ho mai viste, però penso che siano ai massimi livelli, le compagnie svizzere, con la Svizzera, lo stesso, le francesi un po' meno. Comunque, nonostante tutto, io ho visto dei clienti, la soddisfazione cliente, l'Italia per due anni consecutivi è arrivata ai primi posti a livello europeo. Eh sì, è possibile. Comunque ci sono ancora le vecchie babione di le ITA adesso, sono l'ex all'Italia, capito? E ce ne sono datate sia donne che uomini, capito? Sono tutti grandi, invece le altre compagnie sono tutta gente giovane, dai comandanti al capo cabina, insomma, giovani, anche ragazze abbastanza giovani, anche gli uomini, capito? Invece ITA ancora ha tenuto l'impronta della vecchia babiona, capito, di hostess, ancora sono così, di giovani ce ne sono poche e niente. Infatti non si sa quanto dura, avevano speso tutti i soldi per verniciare gli aerei, gli ultimi soldi risvati li hanno utilizzati per verniciare gli aerei, però il colore è veramente bello, proprio piacevole, li vedi, ho visto anche le pubblicità, sono veramente belli esteticamente, probabilmente tra i più belli in assoluto. Poi ci sono quelli rossi, qua sono Swissair, quelli tutti rossi. Sì, la Swissair c'ha sì, la livrea un po' bianco, ma molto rosso, esatto. Poi ci sono anche altre compagnie ogni tanto che arrivano, a volte qualche charter, capito, d'estate ne capitano molte, c'è anche Lauda Fly ancora in giro. Sì, ce ne sono una marea di compagnie. Poi ci sono quelle, la cosa, la, come si chiama, quella Come tedesca va a fare una promemoria nel nome, lo stesso. Cioè, sono sul blu le scritte, mi sembra, no? Come si chiama? La Lufthansa. Esatto, sì, quella è una livrea bianca e blu lo stesso. Bene, Robe, io mi sa che chiudo, che è ora di cena, sono le 8.25, grazie delle quattro chiacchiere, magari ce la risentiamo in altre occasioni, così completiamo la chiacchierata di stasera magari, perché sembra così si è fatto tardino, sono quasi le 8:30. Ok, grazie, sempre piacere parlare con te, soprattutto quando dai informazioni nel tuo campo, io sono di quelli che mi piace sempre ascoltare e approfondire, soprattutto quando trovi persone, diciamo, molto piacevole ascoltare, dai. Ti saluto, io ho già cenato, rimango un pochettino, faccio un paio di chiamate qua, se c'è qualcuno so mi sposto da altre parti. Buon tutto, buona cena, buonanotte, buona giornata per domani, ciao ciao Carlo. Ciao Roberto, grazie, alle prossime, ci sentiamo alle prossime, ciao ciao, buonanotte.